In quel tempo, passando Gesù tra le messi in giorno di sabato, i suoi discepoli, presi dalla fame, si misero a strappare delle spighe e a mangiarne. I farisei, vedendo ciò, dissero: «Ecco, i tuoi discepoli fanno quello che non è lecito fare in giorno di sabato». Egli rispose loro: «Non avete mai letto ciò che fece Davide quando ebbe fame, lui e i suoi compagni? Come entrò nella casa di Dio e mangiò i pani dell'offerta, che non era lecito mangiare né a lui né ai suoi compagni, ma solo ai sacerdoti? O non avete letto nella legge che in giorno di sabato i sacerdoti nel tempio violano il riposo sabatico e tuttavia sono senza colpa? Io vi dico che qui c'è qualcosa di più grande del tempio. Se aveste capito che cosa significa misericordia voglio e non sacrificio, non avreste condannato degli innocenti. Sì, il Figlio dell'uomo è padrone del sabato». Andato via di là, si recò nella loro sinagoga. C'era là un uomo che aveva una mano rattrappita. Domandarono a Gesù: «È lecito guarire in giorno di sabato?» Dicevano ciò per accusarlo. Egli disse loro: «Qual è fra voi quell'uomo che, avendo una sola pecora, se questa cade in un burrone di sabato, non l'afferra e la tira su? Ora, quanto è più prezioso un uomo di una pecora? Perciò è lecito fare del bene in giorno di sabato». Allora disse all'uomo: «Stendi la tua mano». Egli la stese e tornò sana come l'altra. Usciti, i farisei tennero consiglio contro di lui per toglierlo di mezzo. Gesù, quando venne a sapere la cosa, si allontanò di là. Molti gli andarono dietro ed egli li guarì tutti, ma comandò loro di non diffondere la sua fama, ciò affinché si adempisse quanto fu annunciato dal profeta Isaia, che dice: «Ecco il mio servo che io ho scelto, il mio diletto, nel quale si compiace l'anima mia. Porrò il mio spirito su di lui, e il diritto annunzierà alle genti. Non altercherà, né griderà, né udrà alcuno la sua voce nelle piazze. Una canna spezzata non la frantumerà, e un lucignolo fumigante non lo spegnerà, finché non porti il diritto a vittoria, e nel suo nome le genti spereranno». Allora gli fu presentato un indemoniato che era cieco e muto, ed egli lo guarì, sicché il muto parlava e vedeva. Tutta la folla, presa d'ammirazione, diceva: «Che non sia questi il figlio di Davide?» Ma i farisei, saputolo, dissero: «Egli non scaccia i demoni se non in virtù di Beelzebul, capo dei demoni». Conoscendo i loro pensieri, Gesù disse loro: «Ogni regno in sé diviso va in rovina. Ogni città o casa in sé divisa non potrà reggere. E se Satana scaccia Satana, vuol dire che è diviso in se stesso. Come dunque potrà stare in piedi il suo regno? E se io scaccio i demoni in virtù di Beelzebul, in virtù di chi li scacciano i vostri figli? Per questo essi saranno vostri giudici. Ma se io scaccio i demoni in virtù dello Spirito di Dio, vuol dire che realmente è giunto a voi il regno di Dio. E come può uno entrare nella casa di colui che è forte e portar via i suoi beni se prima non l'avrà legato? Allora soltanto potrà saccheggiarne la casa. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Per questo vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà rimessa agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà rimessa. Se uno dice una parola contro il Figlio dell'uomo, gli sarà perdonata, ma se la dice contro lo Spirito Santo, non vi sarà perdono per lui, né in questo secolo né in quello futuro. O ammettete che l'albero sia buono e allora il frutto sarà buono, oppure ammettete che l'albero sia cattivo, e allora il frutto sarà cattivo. Dal frutto, infatti, si conosce l'albero. Razza di vipere, come potete dire cose buone voi che siete cattivi? Dalla pienezza del cuore parla la bocca. L'uomo buono da uno scrigno buono trae fuori cose buone, e così l'uomo cattivo da uno scrigno cattivo trae fuori cose cattive. Io vi dico che di ogni parola detta fuori posto dovranno render conto gli uomini nel giorno del giudizio, poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato. Allora si rivolsero a lui alcuni scribi e farisei, dicendo: «Maestro, vorremmo vedere da te un segno». Egli rispose loro: «Generazione cattiva e spergiura, va in cerca di un segno, ma non le sarà dato altro segno che quello di Giona profeta. Infatti, come Giona rimase nel ventre del pesce per 3 giorni e 3 notti, così il figlio dell'uomo rimarrà nel cuore della terra per 3 giorni e 3 notti. Gli uomini di Ninive insorgeranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, poiché si convertirono alla predicazione di Giona. Eppure c'è qui qualcosa di più di Giona. La regina del sud sorgerà nel giudizio con questa generazione e la condannerà, poiché venne dall'estremità della terra ad ascoltare la sapienza di Salomone. Eppure c'è qui qualcosa di più di Salomone. Quando uno spirito immondo esce dall'uomo, erra per luoghi deserti in cerca di riposo e non ne trova. Allora dice: «Ritornerò nella mia dimora da dove sono uscito». Va e la trova vuota, spazzata e ben pulita. Allora corre a prendere 7 spiriti peggiori di sé e vanno a stabilirsi lì. Così quest'ultima situazione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Proprio così avverrà a questa generazione cattiva. Mentre ancora parlava alle folle, sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e chiedevano di parlargli. Qualcuno gli disse: «Tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e chiedono di parlarti». Ma egli rispose: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?» Quindi stese la mano verso i suoi discepoli e disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli. Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi mio fratello, sorella e madre».